La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, amici del cinema, amici della Rosa Purpurea. Questa è l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, puntuali come sempre ogni sabato a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Questa settimana è una settimana con nomi importanti come quello di Clint Eastwood, con la grande storia, quella con la S maiuscola, che arriva in sala con un film documentario di un grande nome dell'arte, della settima arte, come Werner Herzog, che incontra un gigante del Novecento come Mikhail Gorbaciov, e poi il cinema di genere con The Lodge, Jojo Rabbit, che è valso a Scarlett Johansson una delle sue due nomination agli Oscar. Insomma, è una puntata molto ricca, ancora più ricca se si pensa che verso la fine di questa trasmissione avremo un figlio e un nipote d'arte che quasi quasi dialogheranno fra di loro, perché avremo il figlio di Andrei Tarkovsky, il grande, enorme regista russo dello Specchio, di Solaris, tanto per dare alcuni titoli, e la nipote di Federico Fellini, perché proprio lunedì saranno 100 anni dalla nascita del maestro che forse più di tutti, insieme a Ingmar Bergman, fatemi fare queste, non sono classifiche, sono considerazioni che poi lasciano sempre un po' il tempo che trovano, ma insomma, diciamo che universalmente riconosciuto come l'uomo che più di tutti ha cambiato il cinema, il regista più onirico e seminale della storia del cinema. Insomma, se ne parlerà, perché chiaramente sono due autori che tornano in qualche maniera prepotentemente per gli anniversari, perché la loro arte in fondo non si esaurisce mai. Ma cominciamo più prosaicamente, se vogliamo, con un film di genere molto interessante che si intitola The Lodge. Allora, che ne dite di andare in montagna per Natale con Grace? Vorrei farvela conoscere meglio. Non voglio lasciarti sola con loro, sono ancora scossi per la morte della mamma. No, non c'è problema. Ok ragazzi, io vado. Divertitevi. Cos'è? Si tratta di Grace. Si sono suicidati tutti tranne lei. Cosa succede? Non c'è corrente. Dove sono le mie cose? Non è possibile. Che c'è? Ho sentito qualcosa. Dirigono Veronica Franz e Severin Fiala, i registi austriaci che già qualche anno fa portarono in sala Good Night Mommy, la storia di una madre e dei suoi figli veri o immaginari in una dimensione horror nei confini di una grande villa. Qui il plot si fa più, come dire, concreto, più realistico. Mia e Aden, fratello e sorella, lei una bimba, lui quasi un adolescente, hanno da poco perso la madre, vivono col padre Richard, che vorrebbe che i figli conoscessero meglio la sua nuova fidanzata Grace. Quale buona idea viene in mente al buon uomo? Portare tutti in una bellissima casa nel bosco, appunto The Lodge del titolo, per farli familiarizzare un po'. Richiamato improvvisamente però da un impegno di lavoro per un viaggio in città in mezzo alla neve che sta seppellendo tutto, lascia soli appunto Mia, Aiden e Grace, e le cose da quel momento in poi, come dire, saranno diverse. È con noi Boris Sollazzo, con il quale parleremo di questo e degli altri principali film della settimana. Ciao Boris. Buongiorno Franco a tutti gli ascoltatori. Allora Boris, questo The Lodge, un film dove i piani del reale e dell'onirico dall'inizio vengono presentati come elementi fondamentali della narrazione, in mezzo a queste nevi sterminate, a questi boschi bellissimi, a questa casa vagamente spettrale, ma che piano piano si fondono, diventano una dimensione unica nella quale lo spettatore a dover decidere se quello che stiamo vedendo è verità, realtà, sogno, incubo. Ma un giorno intanto dovranno spiegarmi perché gli sceneggiatori prendono certe decisioni, no? In Revenge il fidanzato di Matilda Lutz lascia la propria fidanzata bellissima con due pervertiti, qui un padre lascia i propri due figli già traumatizzati con una donna simpatica, carina, quello che volete, ma che è sopravvissuta a un suicidio di massa ed è sotto psicofarmaci. Diciamo che il punto di partenza, l'innesco della storia non è molto credibile, però è vero anche che forse in questa confusione di piani, in questa differenza di piani, anche in questa contaminazione di piani narrativi, temporali, spaziali, probabilmente insomma la credibilità e la verosimiglianza non era l'esigenza principale. È interessante perché i due registi, come avevano fatto con Dubai Mammy, non mettono solo l'aspetto familiare, l'aspetto dei sentimenti più o meno filiali nel calderone, ma mettono anche lo spazio fisico di una casa che diventa, anzi di più case in questo caso, di cui poi lo chalet diventa il centro di tutto, ma anche la casa delle bambole della bambina per esempio, che diventano dei luoghi che in qualche modo sono degli stargate probabilmente verso dei mondi onirici o addirittura dei mondi mentali dei protagonisti, una in particolare. Il film è molto interessante a livello cinematografico perché i due sono chiaramente degli autori che però in un contesto produttivo diverso da quello in cui si erano trovati cercano anche di sviluppare meglio il proprio talento di genere, il proprio talento più commerciale. Il punto è che però The Lodge zoppica proprio in questo, nel senso che i due registi alle prese con una produzione più alta, con anche attori diversi, questa Riley Keough, questa modella trentenne molto brava, molto bella, ma probabilmente inadatta insomma a un certo tipo di cinema d'autore, non scelgono e quindi partono all'inizio con un film di genere, un film realmente di genere molto lineare anche in qualche maniera, nonostante appunto la struttura narrativa che tu avevi accennato, che chiaramente induce alla complessità, e lì il film funziona in qualche modo, va avanti senza intoppi. Poi arriva la parte più d'autore, la parte in cui in qualche modo i nodi vengono al pettine, in cui bisogna moltiplicare i piani, e lì diciamo si inceppa, diventa più macchinoso perché i due non riescono a capire come e dove utilizzare i meccanismi dell'uno e dell'altro. Questo non toglie secondo me la pagina di interesse che ha The Lodge, perché ci sono delle scene molto belle, ci sono dei momenti molto interessanti, in alcuni momenti quella contaminazione di piani è davvero inquietante, soprattutto quando si rispecchia nella disperazione e nelle difficoltà di Grace. Gli attori sono bravi, è tutto girato bene, ma l'impressione è che siano due film che non si incontrano mai, che non riescono mai davvero a trovare un'omogeneità. E rimane alla fine di tutto, secondo me, un ottimo esercizio di stile, un'ottima dimostrazione di talento. Certo, bisognerà capire se i due vogliono andare a Hollywood oppure vogliono continuare un processo più rigoroso, più d'autore, sempre nell'ambito del genere. In questo caso, diciamo, il film a mio parere rimane incompiuto pur con gli elementi di interesse anche di intrattenimento che ha. No! Adesso ti prendo! No! No! Aiuto! Come va qui? Bene! Dai, vediamo cosa hai bisogno fare. D'aiuto? Sì! Ehi ragazzi, date una mano a Grace! Ah! Vai, vai, vai! Quel cappello è della mamma. Scusami, io non lo sapevo. E allora, questo era The Lodge, il film con cui abbiamo aperto la Rosa Purpurea. Adesso sentiamo come vanno le cose sulle strade. Fra poco due giganti a loro modo, uno del cinema, Werner Herzog, l'altro della storia, quella con la S maiuscola, uno dei protagonisti del Novecento e della fine del Novecento soprattutto, Mikhail Gorbachev, in un film veramente interessante, oltre la statura dei personaggi, ma davvero rivelatore anche di un percorso storico irripetibile. Herzog incontra Gorbachev. La Rosa Purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea. Cosa succede se un regista di grande storia, di grande mano e di grande talento come Werner Herzog, è anche molto molto prolifico, incontra un gigante della storia come l'ultimo presidente dell'URSS, Mikhail Gorbachev. È successo tre volte nell'arco di sei mesi, ne è uscito fuori un film, un documentario che adesso arriva nelle sale italiane, si intitola semplicemente Herzog incontra Gorbachev. Incontrare Gorbachev ha un enorme peso storico. I like Mr. Gorbachev. I think we both believe that we can do business together. Questa fu una svolta. Noi e gli americani sapevamo bene cosa avrebbe significato la guerra nucleare, la morte della civiltà. Ma le forze sprigionate da Gorbachev diedero il via a movimenti indipendentisti praticamente in tutto il blocco sovietico. Cosa ci sarà scritto sulla sua lapide? Ci abbiamo provato. E qui ci sta anche tutta l'ironia di quest'uomo straordinario, nato nella campagna russa, venuto fuori da uno sperduto villaggio, messosi in luce all'interno del Partito Comunista Sovietico, diventato presidente dell'URSS, il presidente della svolta. C'è un momento del film molto interessante, anche abbastanza divertente nella sua ironia macabra, quello in cui comincia a morire tutta la vecchia guardia dell'URSS. Muore Brezhnev dopo 17 anni di presidenza, poi dopo un anno muore Andropov, dopo un altro anno muore Chernenko, e devo dire che il montaggio di Herzog a suon di passo dell'oca e marce funebri in questo senso è molto efficace per capire lo sgretolarsi di un'idea di comunismo, di socialismo reale, di Unione Sovietica, alla quale la risposta è appunto Mikhail Gorbaciov, il giovane, il pragmatico, quello che incontra la gente, quello che da lì a poco capirà che tutto deve cambiare e aprirà i due canali storici, quello della perestroica e quello della glasnost. Boris, è un film dove la partecipazione degli incontri, cioè la presenza degli incontri Herzog-Gorbaciov, ha un ruolo definirei quasi limitato, anche se è chiaramente interessante vedere le facce sempre molto espressive di Gorbaciov quando racconta cosa ci sia stato dietro i momenti più grandi della storia del Novecento, per esempio la caduta del muro di Berlino, cosa abbia motivato le sue decisioni, quali siano stati i nemici che lui identifica anche, no? Per esempio alla fine ha una battuta su Yeltsin che è fulminante, però il controcanto è quasi più importante, cioè capire cosa è stato Gorbaciov per il mondo attraverso le voci dei protagonisti della politica di quegli anni, ma anche le immagini, per esempio della visita che ebbe a Milano, delle visite che ebbe, di come fu accolto come una rock star in tutto il mondo. Ecco, era sicuramente un uomo più amato all'estero che in patria, però il profilo e il perché di un premio Nobel della pace da questo film viene fuori tutto. Assolutamente sì, e devo dire è un film interessantissimo anche a livello cinematografico, perché noi siamo abituati a un Werner Herzog quasi entomologo, no? Capace di guardare la realtà sia nei film di finzione che nei documentari anche con una certa freddezza, e qui invece c'è un Herzog empatico, estremamente partecipativo, e negli incontri forse parla più lui di Gorbaciov, anche perché porta in sé l'enorme senso di colpa, no? Dei milioni di russi morti a causa del nazismo, e insieme l'ammirazione sconfinata, quasi infantile, che ha per quest'uomo Gorbaciov. Dall'altra parte troviamo un uomo umile che ha cambiato il mondo e che sente su di sé il peso del dolore e del fallimento, perché forse non ha ancora metabolizzato che la sua caduta non è stata la caduta della sua idea. Lui il mondo l'ha rivoluzionato, lui il mondo l'ha cambiato, lo ha migliorato, o almeno ci ha provato, e però ha dovuto pagare fallendo, cadendo, venendo deposto. C'è anche poi il Gorbaciov uomo. Io ho l'impressione che Herzog avesse molto materiale, ma che abbia privilegiato, da grande regista, quelle poche immagini potenti. Penso anche alla bellezza dell'uomo innamorato, Gorbaciov, che racconta con pochissime parole intensissime, bellissime, innamorate, la moglie Raissa, o quando incontra la zia. C'è anche la profondità sentimentale di qualcuno che non ha mai affrontato la politica come se fosse semplicemente strategia, ma come se fosse davvero, è stato forse l'ultimo uomo del Novecento a credere di poter cambiare il mondo. Tutto questo sta in Herzog incontra Gorbaciov, che è un documentario secondo me seminale e capitale per chiunque voglia capire il caos in cui ci troviamo in questo momento, cosa poteva essere la fine del Novecento per questo pianeta e cosa non siamo riusciti a fare. Ed è interessante perché i grandi uomini hanno una caratteristica, sentono su di sé il peso anche dei fallimenti altrui, si sente, anche se non viene mai citato, quanto in qualche modo il premio Nobel senta la colpa di un Putin in questo momento magister, deus ex machina delle politiche estere del mondo, nonostante non sia lui il colpevole, proprio perché aveva un'idea idea della politica che era profondamente diversa da quella a cui siamo abituati. È davvero un film che consiglio a tutti, anche ai non appassionati di storia. E quindi Herzog incontra Gorbaciov e ne viene fuori un buon film. Noi invece giochiamo insieme e incontriamo la prima traccia del nostro film misterioso di oggi. Non c'erano più puttane laggiù? Guarda. Ma questa io la conosco. Ebbene anche. Questa troia è da noi ora. E allora, se avete già indovinato dalle piccanti parole di queste, allusive parole di questa nostra prima traccia del film misterioso, di che film si tratta, scriveteci il titolo, mi raccomando il titolo completo e la vostra, il vostro indirizzo alla rosapurpurea@radio24.it. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia. Feldmaresciallo Jojo, sei il nostro uomo migliore, preparati a partire. Lo sapevi? Gli ebrei riescono a leggersi nella mente. Ma come fai a riconoscerne uno? Potrebbero sembrare come noi. Ciao. Lo sai che cosa sono? Dillo. Un'ebrea. Sono il nemico. Non sei un nazista, Jojo. Sei un bambino di 10 anni a cui piace indossare una buffa uniforme e che vuole fare parte di un gruppo. Niente ha più senso ormai. Lo so, decisamente non è un buon momento per essere un nazista. E avete sentito alcuni stralci dal clip, dal trailer di Jojo Rabbit, film presente anche nelle nomination agli Oscar, con 6 candidature, 2 candidature ai Golden Globe. Insomma, è un film di quelli che, come dire, stanno riscuotendo successo nella cosiddetta award season, no? La stagione dei premi. Nel cast, il film è diretto da Taika Waititi, che interpreta appunto questo Hitler immaginario anche nel film. Nel cast, Roman Griffin Davis se Jojo, Thomasin McKenzie è la bambina ebrea nascosta e troviamo oltre a Rebel Wilson e Sam Rockwell anche Scarlett Johansson. Boris, un film che profuma molto di Wes Anderson, fammi dire, no? Cioè la messa in scena, i colori, i suoni, la tipologia di umorismo ricordano molto, no? Quella un po' surreale, statica del regista Wes Anderson, forse senza arrivare a quei livelli. Forse gli manca anche il senso profondo del tragico, nel senso che rimane troppo una favola per parlare di Olocausto e di Hitler. È un po' come se Wes Anderson avesse deciso di rifare Il Grande Dittatore, di raccontare e impersonare addirittura, in questo caso il regista Denoy Denkel, dopo aver visto Il mio amico Eric e Il bambino dal pigiama a righe, uno di seguito all'altro. Questo per dire che ci sono forse troppe cose in Jojo Rabbit, anche se poi il lungometraggio riesce ad avere una sua potenza, perché l'intuizione di usare il grande dittatore, il più terribile dittatore, il male incarnato come amico immaginario, ha qualcosa in sé di estremamente profondo e di estremamente potente. Manca appunto quel senso del tragico, anche se poi si sorride molto perché è una commedia e ci si commuove inevitabilmente, perché c'è anche questo twist facile, emotivo, tra il bambino e la bambina, che in qualche modo demolisce tutte le sovrastrutture di questo ragazzo, che in fondo ha solo bisogno di un padre, ha solo bisogno di qualcuno che lo guidi. Hai ragione però che a livello di ritmo, a livello di visione manca qualcosa. Non siamo dalle parti del grande dittatore, però è anche vero che in un momento storico come questo, in cui certe lezioni del dopoguerra che sembravano scontate cominciano a diventare molto più fragili, molto più labili, quello che è quasi un family movie, perché lo potremmo definire così, che racconta e dice certe cose, assume un'importanza particolare, e quindi mi sento di perdonare queste imperfezioni, perdonare questa mancata perfezione, perché in qualche modo la storia è importante, forse soprattutto da far vedere ai bambini, anche nelle sue parti più ambigue. E questo è Jojo Rabbit, allora il film è nelle sale italiane. Noi adesso diamo la linea alla regia, fra poco il ritorno di Clint Eastwood con Richard Jewell. Ci sono 6 milioni e mezzo di persone che in Italia spontaneamente offrono aiuto agli altri. Le loro voci sono spesso lontane dalla ribalta, ma ben sentite da chi chiede aiuto. C'è Gianni, medico in pensione, che cura i senza fissa dimora. Anita, che ogni domenica indossa il naso rosso da clown e va in ospedale per far ridere i bambini. Luigi, che a 18 anni è entrato in carcere per far teatro coi detenuti. Said, che ha scelto di aiutare i rifugiati che arrivano in Italia. Sono Cristina Carpinelli. Ogni domenica alle 14.30 in Diario di un giorno vi racconterò le storie di chi sceglie di tendere la mano, cambiando così il corso delle cose. Storie di generosità e meraviglia, di possibilità e speranza. Naturalmente su Radio 24. La rosa purpurea. Grazie, signore. Ma ho solo fatto il mio lavoro. Allontanarsi dalla torre! Via! Si sospetta sempre di chi trova la bomba, come di chi trova il cadavere. Richard Jewell rispecchia il profilo dell'attentatore solitario, un bianco frustrato, aspirante poliziotto che vorrebbe diventare un eroe. Lo pubblichiamo. Tu sei un sospetto, non parli. Parlo io, ripetilo. Io non parlo. Potrebbe dimostrare la sua innocenza. Dica, c'è una bomba a Centennial Park. Avete 30 minuti. Smettila di essere il loro migliore amico. Mi è stato insegnato a rispettare le autorità. Le autorità vogliono farti a pezzi. Sei pronto a contrattaccare? Continua il viaggio di Clint Eastwood nell'America, nei suoi anti-eroi, nel non riconoscimento degli eroi, in una giustizia che non sa guardare dalla parte giusta o andare oltre le apparenze. È un viaggio molto interessante di questo regista che almeno in questo caso non ha perso la mano felice, ma sembra averla persa poche volte, insomma, negli ultimi anni. Richard Jewell, una storia ambientata durante le Olimpiadi di Atlanta, ricorderete tutti l'attentato che spaventò il mondo durante le Olimpiadi, lì appunto nella città della CNN e della Coca-Cola, e lo mette in scena attraverso il suo personaggio più controverso, questa guardia giurata, questo agente della security, tutto d'un pezzo, soprattutto tutto compreso nel suo ruolo, una persona che sembrava, come dire, vivere quasi appunto dell'essere estremamente attaccato, fedele a Eligio, a tutti i comportamenti che gli venivano chiesti. Però, grazie a questa attenzione, al suo colpo d'occhio, l'attentato non fu quello che poteva essere, fu molto meno dirompente, perché Richard Jewell vide uno zaino sospetto e si sgolò ai quattro venti, quasi anche sicuramente ai quattro angoli del mondo, autorità, polizia, cercò in tutti i modi di far sì che lo prendessero sul serio e andassero a vedere che cosa c'era dentro quello zaino abbandonato. Boris, alcune cose molto interessanti di questo film, a partire dall'attore, a parte che troviamo anche Sam Rockwell nei panni dell'avvocato che difenderà Richard Jewell, Katie Bates straordinaria e soprattutto Paul Walter Hauser, che trova un po' il ruolo della vita. L'abbiamo già visto nel film Tonya, era l'attentatore di Tony Harding, quello che gli le spezzava le ginocchia con una bastonata. Dicevo, alcune cose molto interessanti. Intanto il percorso appunto di Clint Eastwood, che ancora una volta, come ha fatto per esempio recentemente con Sally, ci dà l'idea di un'America che, come dicevo prima, non sa più riconoscere e valorizzare i propri eroi, e Clint questo lo racconta quasi con un rimpianto forte rispetto a un'America nella quale lui si è sempre riconosciuto. E poi c'è tutta una critica forte alla società della comunicazione, che forse è addirittura in anticipo con i tempi rispetto a quello che poi si sarebbe verificato, no? Cioè il fatto che per arrivare per primi e avere subito un'idea precisa su chi è un colpevole, su chi è invece una vittima, molto spesso si finisce per sbagliare. C'è una cosa che dobbiamo dire di Clint Eastwood. Intanto che il raccontare uomini normali in situazioni eccezionali è sempre stato un suo pallino fin da Gunny, e negli ultimi anni è diventata un'ossessione. Parla sostanzialmente solo di questo, tanto da fare un film che è il gemello di Sully, inevitabilmente, anche se qui al posto di un comandante colto, strutturato, c'è un uomo molto piccolo, è un piccolo uomo in una grande situazione, è un americano medio e probabilmente mediocre, ossessionato dalle armi, dal far parte delle forze dell'ordine. C'è una battuta divertentissima in cui dice: sono in Georgia, è normale che mi piacciono le armi. È un uomo che appunto sta cercando un riconoscimento nella società, vive, non ha una vita sentimentale, vive ancora con la madre, questa Katie Bates meravigliosa che ha avuto anche una nomination agli Oscar. Probabilmente ha esagerato nella sua vita, perché non è un uomo perfetto affatto, ha cercato quella sua affermazione anche sbagliando, anche facendo degli errori. È paranoico come molti americani, e quella paranoia però salverà inevitabilmente delle vite. Quello che ci dice Eastwood sempre è che l'eroe non deve essere perfetto, cioè l'eroe può essere un eroe in una situazione della sua vita e poi può non esserlo altrove, e però se rappresenta il simbolo di qualcos'altro, un paese in cerca di un colpevole, un paese affamato, un paese che è anche invidioso del talento altrui, può distruggerlo. Perché un'altra delle ossessioni di Clint Eastwood è che un vero americano, il sogno americano, è costituito dal fatto che tutti devono fare il proprio dovere, e il vero eroismo è fare il proprio dovere, ma spesso quel paese, quando fai il tuo dovere, ti massacra. Richard Jewell è questo. Richard Jewell salva tante vite, perché quella bomba esploderà, ma grazie alla sua intuizione morirà solo una persona e saranno 111 i feriti. Ma lui, come dice Sam Rockwell, bravissimo anche Jojo Rabbit, peraltro uno degli attori più bravi e sottovalutati di tutta Hollywood, come dice Sam Rockwell, è la 113esima vittima di quell'attentato al Centennial Park. Clint Eastwood racconta forse sempre le stesse storie ultimamente, è vero, ma un po' come Ken Loach, come Darden, a suo modo anche Scorsese, in un cinema completamente diverso, nessuno sa raccontarle come lui, nessuno sa farti entrare nel gorgo kafkiano di un singolo che va contro i poteri forti, in questo caso il governo degli Stati Uniti e i media. Nessuno sa raccontarti il cinismo del sistema, che possa essere una giornalista a rivista o un agente dell'FBI che era lì, che era annoiato perché pensava di meritarsi di meglio e che non aveva visto e che non si era accorto di quello di cui si era accorto un uomo normale. La sua colpa era quella, essere un uomo piccolo, essere più simile a una vittima che a un eroe, e che diventa carnefice perché fa comodo a tutti in fondo che lui non sia l'eroe di cui si ha bisogno, perché direbbe che tutti possono diventarlo e che direbbe che tutti possono fare qualcosa per il proprio paese. Eastwood lo racconta meglio di chiunque altro, lo racconta senza compromessi, senza rendere catartico il personaggio di Richard Jewell, senza fare sconti né al proprio protagonista né ai colpevoli. Non dipinge più buono di quello che è lui, non dipinge più cattivi di quello che sono i cattivi. La verità è che alle soglie dei 90 anni Clint Eastwood ormai non scrive più film, non fa più film, non fa più capolavori, fa proprio delle parabole. I suoi racconti, le sue storie potrebbero essere in qualche modo degli aforismi, potrebbero diventare dei racconti della notte per educare e formare le nuove generazioni. È diventato veramente qualcos'altro, non è più solo un regista, e forse Richard Jewell non è nemmeno il suo film più bello, perché ce ne sono veramente tanti capolavori nella sua cinematografia, ma mutuando una battuta che ho fatto su un film precedente, è il film di cui avevamo bisogno in questo momento. Richard Jewell, quindi, Clint Eastwood, nei cinema, nelle sale di tutta Italia. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E buon cinema quindi, con tanto, tanto cinema nuovo che arriva nelle sale. Fra poco parliamo invece di due grandi maestri attraverso le lenti di ingrandimento di chi gli è stato più vicino, figli, nipoti, Andrei Tarkovsky, Federico Fellini. Prima però giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso. Si è arroccarito, si è nascosto. Cino, però mi sentite, stronzi? E allora avete sentito sicuramente in sottofondo i suoni della guerra, i suoni dei colpi, e quindi siamo di fronte a uno dei più grandi soldati della storia del cinema. Se avete indovinato di che film si tratta, titolo completo e vostro indirizzo, alla rosa purpura @radio24.it. Le note della colonna sonora di Stalker, film del 1979, che rappresenta uno degli apici della straordinaria carriera di Andrei Tarkovsky, uno dei più grandi registi della storia del cinema, uno dei maestri assoluti anche per come ha saputo, come dire, imporre uno stile, interpretare una qualità di messa in scena davvero particolare. Andrei Tarkovsky, abbiamo detto Stalker sicuramente, ma Solaris, Lo Specchio, Sacrificio, Nostalgia, sono tutti titoli che hanno assolutamente occupato uno spazio importante nella storia del cinema. Il cinema di Andrei Tarkovsky era un cinema estremamente visivo, estremamente poetico, dove il linguaggio è stato spinto sempre al di là di un'asticella immaginaria che in quel momento si fermava prima, e Tarkovsky era un regista che la spingeva oltre. Noi abbiamo la possibilità e anche un po' l'onore di avere con noi, collegato al telefono, il figlio del maestro Andrei Tarkovsky, che saluto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, il motivo per cui abbiamo qui con noi, Andrei Tarkovsky, chiamiamolo Junior così per non confonderlo con il padre, è che c'è un film che sta per arrivare nelle sale italiane, tra l'altro con una distribuzione a circuito, quasi a tournée, perché sarà una vera e propria tournée, una sorta di tour de force, quello che lei affronterà a partire da Bergamo, dall'Auditorium il 20 gennaio, lunedì, poi all'Anteo di Milano il 21, al Massimo di Torino il 23, ad Ancona il 25, al Teatro delle Muse, e tutte queste tappe e anche quelle che verranno dopo saranno accompagnate dalla presenza del regista, perché lei ha messo in scena, ha creato un film che ci racconta Tarkovsky, si intitola Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera. Ecco, qual è l'obiettivo di questo film? A chi vogliamo raccontare oggi nel 2020 il film del leggendario regista russo? Sì, ma il film racconta in una maniera abbastanza insolita, in quanto è basato su un monologo di mio padre che ho montato a partire da una serie di conferenze, incontri con pubblico, lezioni registrate che abbiamo qui negli archivi fiorentini e anche quelli di Mosca. Quindi un Tarkovsky che racconta se stesso, quindi senza filtri, senza né critiche né incontri con altre persone. È un tentativo di riavvicinare lo spettatore alla sua figura, a quello che lui pensava, quello che lui, le cose che le interessavano, le premevano di dire e di comunicare, quindi un po' un riavvicinamento dopo gli anni e anni di vari film, critiche eccetera, che sono state fatte su Tarkovsky, è un incontro più personale, più diretto. Io credo che sia un modo migliore di far ricordare coloro che conoscono la sua opera, la sua figura, nonché anche per i giovani che per la prima volta si avvicinano alla sua arte. Ecco, lei parla un italiano perfetto, perché chiaramente la vita di Tarkovsky poi a un certo punto si trasformò nella vita di un esule, via dalla natia Unione Sovietica, si stabilì in Italia e precisamente appunto anche a Firenze. Che rapporto aveva con i maestri del cinema italiano Andrei Tarkovsky? Ma era legato con profonda amicizia con Tonino Guerra, con Michelangelo Antonioni, con Federico Fellini, il regista che lui amava molto, quindi conosceva bene il cinema italiano, il neorealismo, non solo al cinema, anche alla cultura italiana. Le citazioni di grandi pittori del Cinquecento, di Leonardo, di Piero della Francesca, sono presenti quasi in tutti i suoi film. Quindi l'Italia e la sua cultura, il Rinascimento, era qualcosa che mio padre amava fin da giovinezza, e quindi questo incontro con questo paese era molto importante per lui. Poi per motivi politici la sua decisione di rimanere all'estero, chiaramente scelse l'Italia perché diceva che è l'unico paese dove lui riusciva a sentirsi meno solo e sentire meno la nostalgia della patria. E allora è interessante questo passaggio, perché noi in questa puntata, una sorta di carrambata, diciamo, della Rosa Purpurea, adesso salutiamo Andrei Tarkovsky, che porta, ripeto, dal 20 di gennaio in poi in tournée il suo Andrei Tarkovsky, il cinema come preghiera, e tra poco sentiremo la nipote di Federico Fellini, perché lunedì, proprio lunedì, è il centenario della nascita di Fellini. Evidentemente i grandi maestri del cinema, anche quando si conoscono e hanno condiviso uno sceneggiatore come Tonino Guerra, continuano a parlarsi anche da lontano. Grazie davvero Andrei Tarkovsky per questa nostra chiacchierata. Grazie mille, grazie mille. E allora, l'abbiamo detto, fra poco la nipote di Federico Fellini, Francesca Fabbri Fellini, per raccontarci che cosa bolle in pentola, soprattutto a Rimini, ma non solo, per i 100 anni del maestro. La rosa purpurea. Eh beh, insomma, le note sono quelle inconfondibili. Federico Fellini, 8 e mezzo, e da un maestro all'altro, mi verrebbe da dire, dal figlio di Tarkovsky alla nipote di Federico Fellini, che lunedì 20 gennaio avrebbe compiuto 100 anni. Il mondo, davvero il mondo, non solo del cinema, lo sta festeggiando, celebrando, omaggiando. In tutta Italia sono previste cose, momenti, proiezioni, retrospettive, incontri, convegni, libri, ma ovviamente il cuore batte a Rimini. Batte a Rimini, dove Fellini è nato, dove Fellini ha vissuto nella sua suite 316 del Grand Hotel per tanti anni, la Rimini che riecheggia soprattutto nelle opere dell'inizio della sua straordinaria e incredibile carriera. Saluto al telefono Francesca Fabbri Fellini, buongiorno. Buonasera a tutti gli amici di Radio 24. Ciao Franco, scoppiettante, scoppiettante Francesca. Allora, è un centenario, è un centenario col sorriso in qualche modo, no? Nel senso che si è arrivati a questa data con la grande voglia di omaggiare un maestro che ancora oggi, l'ho detto all'inizio della trasmissione, rimane uno dei maestri più seminali della storia del cinema, quello a cui i registi di tutto il mondo hanno intervistato in 30 anni tanti, quando gli chiedi non solo del cinema italiano, ma di chi li ha ispirati, beh, il nome di Fellini 4 volte su 5 salta fuori. E partiamo proprio da quello che a Rimini succede, perché tra lunedì e martedì ce ne sono di cotte e di crude, concerti, orchestre, e poi una bellissima mostra che è aperta già da qualche giorno. Insomma, Rimini vuole. Rimini, che ha avuto con Fellini un rapporto non sempre lineare, diciamo così, questa volta vuole non mancare il grande appuntamento. Allora cominciamo a ricordare alcuni di questi appuntamenti. Beh, Rimini ha un programma intensissimo, dalla mostra Fellini Genio Immortale, che è allestita al Castel Sismondo, un teaser, un antipasto di quello che sarà il Museo Internazionale Federico Fellini, allestita dallo Studio Azzurro, e poi due concerti molto importanti, uno di Ezio Bosso e l'altro di Vince Tempera, e un incontro con Marco Tullio Giordana e il maestro Marco Bellocchio e Gianluca Farinelli al Cinema Fulgor, che modererò domenica pomeriggio, domenica 19, ovvero domani alle ore 16. Francesca, quando si parla chiaramente di un genio di questo tipo, come dire, sul piano cinematografico è stato detto tutto, però quando si parla con un parente, con qualcuno che l'ha vissuto come te, come zio, viene in mente anche un lato intimo, no, del personaggio. Ecco, ti chiedo, che ricordo hai di zio Federico? Il mio zio Chicco, come lo chiamavo io, Franco, è stato un uomo dotato di grande ironia e me l'ha trasferita, perché dicendomi, anche insegnandomi, che poteva essere uno degli ingredienti più importanti della vita di ognuno di noi, e poi mi ha insegnato una grande umiltà. Io lo ricordo con tenerezza quando ci veniva a trovare a Rimini, dove vivevo con la nonna, sua sorella Maddalena, che era mia mamma, il mio padre Giorgio. Facevamo delle bellissime passeggiate sulla spiaggia di Rimini. Di Rimini amava la nebbia, amava anche questa Rimini che spegneva le luci dell'estate e diventava, come diceva lui, è fantastica Rimini, è magica, perché d'inverno, avvolta dalla nebbia, scompare e appaiono i monumenti come se fossero dei fantasmi, e quindi aveva questo fascino che lo attirava della Rimini d'inverno. Ecco, per quanto concerne invece la parte più cinematografica, il film del cuore, per te almeno, di Federico qual è? Il primo che ho visto, avevo 8 anni, ed è stato La strada, e mi piace condividere questo amore per La strada anche con Papa Francesco, che è il film della sua vita, come ha detto nella sua prima intervista a Civiltà Cattolica, un film dove io non posso che ricordare l'interpretazione straordinaria di zia Giulietta in Gelsomina, questo ruolo che le ha portato insieme con lo zio Federico alla conquista del primo Oscar di Federico e primo dei cinque, ovvero l'Oscar per la strada come miglior film straniero, e l'Academy Awards, come tu ben sai Franco, ha istituito questa categoria proprio in occasione di questo film. E allora buon compleanno maestro, 100 anni di Federico Fellini, lunedì 20 gennaio a Rimini, e non solo, grandi omaggi e un saluto a Francesca Fabri Fellini. Grazie a te e a tutti i tuoi radioascoltatori, Franco. Marcello, come here. Hurry up. Sì, Silvia, vengo anch'io. Vengo anch'io. Francesca Fabri Fellini che tra l'altro esordirà presto con un cortometraggio dedicato proprio a zio Federico, a zio Chicco, come l'ha chiamato qui alla Rosa Purpurea. Noi dobbiamo a questo punto dedicarci al cinema da vedere in casa, cominciando da dare indietro i 7 giorni, avevamo giocato con questo film. Cliff qui ha la parte più dura. È così che descrivi il tuo lavoro, Cliff? Cioè che ho la parte più dura? Sì, e me ne vanto. E allora si trattava di C'era una volta a Hollywood, abbiamo giocato con il grande film di Quentin Tarantino che hanno indovinato per primi e riceveranno quindi nello splendido Blu-ray bianco Sandro Donnici di Roma e Glauco Bortolussi di Milano. Noi ci facciamo raccontare questa edizione un video di C'era una volta a Hollywood da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Fresco di 10 nomination agli Oscar e delle vittorie, i Golden Globe, arriva in DVD e Blu-ray l'ultimo film di Quentin Tarantino, il suo nono dunque, e stando a quanto ha dichiarato il regista, il suo penultimo film prima di ritirarsi, vedremo. Questo è veramente cinema di puro godimento, feticistico, nostalgico, con cui riscrive la storia dell'omicidio di Sharon Tate, moglie di Polanski, uccisa dalle belve di Charles Manson, e si perde in una città fabbrica dei sogni spettrale con grandissimi attori come DiCaprio e Brad Pitt. Una vera goduria, il riversamento a un video è ben riuscito, seppure non facilissimo data la grana d'altri tempi della pellicola, e poi c'è un'ora di extra, tra cui 7 scene inedite, quindi direi abbiatene tutti. Assolutamente Giulio, questa volta la segnalazione TV non vuole essere tanto una segnalazione di un film in televisione, ma di un vero omaggio che durerà qualche giorno, che è quello per i 30 anni di Fuori Orario, la fine di questi festeggiamenti, Notte Senza Fine su Fuori Orario, sui 30 anni di Fuori Orario su Rai 3, da domenica 19 a domenica 26 praticamente per una settimana. Fuori Orario metterà a disposizione di nuovo i materiali e gli autori che più ama, da Bela Tarra a Bernardo Bertolucci, da Cipriano Maresco a Straub Uye, insomma un programma per dire grazie anche a questi 30 anni di cinefilia pura notturna che rappresenta Fuori Orario. Sì, è l'ultima settimana per festeggiare i 30 anni di Fuori Orario, storico programma notturno di Rai 3 inventato da Enrico Ghezzi, che ci ha fatto vedere cose mai viste, come dice il sottotitolo, che si è inventato associazioni, che ha fatto critica facendo vedere film. E allora vi direi di non perdere questa domenica 19, poi venerdì 24, sabato 25, domenica 26, di notte, l'ultima settimana di celebrazioni, con le notti senza fine realizzate da Roberto Turigliatto e Stefano Francia di Cerro. Omaggio Enrico Ghezzi, capolavori di Socorro Festrobuie, guide per il programma, poi una grande misconosciuta regista portoghese, Rita Azevedo Gomes, e sperimentalismi indipendenti italiani da Luciano Emmer a Mauro Santini. Da non perdere. Assolutamente Giulio, da non perdere anche il piccolo festival di Film TV, raccontiamolo, perché la prossima settimana, il prossimo weekend invece il festival passa proprio dalla redazione del settimanale di cinema. Sì, sono molto felice di presentare questa 3 giorni di proiezioni, presentazioni e concerti anche all'interno della redazione di Film TV in via San Giovanni alla Paglia 9A a Milano. 24, 25, 26 gennaio si parte con Emanuela Martini e il suo libro Da Caligari agli Zombie, a cui segue la proiezione di un film, L'isola delle anime perdute, cult horror maledetto. Si prosegue il giorno dopo con Niccolò Carnesi in concerto, presentazioni di libri e Nequoyer sur Tupac et Jeul di Frank Beauvais, uno dei film più belli visti l'anno scorso, inedito in Italia. Mentre domenica presentazioni di libri ancora, concerto dei Mesi, gruppo stravagantissimo della musica contemporanea italiana, e si chiude con Bait, capolavoro veramente inglese, inedito in Italia. E allora grazie Giulio e auguri al Festival di Film TV, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco e ciao a tutti e alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV. Segnalazioni che quindi torneranno fra 7 giorni. Noi abbiamo chiuso qua la nostra puntata. Ci resta come sempre l'epilogo, lo svelamento del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con Rambo Last Blood, uno dei più grandi soldati, l'avevo detto, della storia del cinema. Vincitori e recensione la prossima settimana alle 18, qui come sempre il sabato, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea.